vago da solo per campi deserti e squarcio brume di un fresco mattino. Pungente l'aria mi sveglia da un torpore che aleggia di notte. Umidi piedi per l'erba bagnata, quale di canne o un fruscio. Qualcosa si muove improvviso, il sipario dal sole è smarrito. E splende un'altra volta intorno a me, che mi inchino stupito e mi siedo ad ammirare lo spettacolo, frenando un po' lo spirito mio, che pure fremendo si scuote, si innalza su vette irradiate e tenta l'oblio. E vaga su per le alte quote, mi vede già come un punto distante, lo ammiro giù da questa terra, grande nel cielo seppur lontano. E vaga su per altri mondi, mi chiede cose con parole nuove, son suoni che io non capisco ancora, ma mi rapiscono e mi portano via, via da qui. Stretto mi tengo e mi lascio portare, lo spirito è certo che sa dove andare, fascino d'aria m'avvolge, di vertigine il senso confonde. In mezzo a stagioni che cambiano in fretta e poche parole davvero capite, fiacco d'ebbrezza e di volo, chiudo gli occhi e mi lascio cadere, e sento tante vite intorno a me, che col soffio del vento, né caduta e né schianto, mi riservano, frenando il forte spirito mio, che pure fremendo si scuote, per vette irradiate e trova l'oblio. E vaga su per le alte quote, mi vede ancora come un punto distante, lo ammiro giù da questa terra, grande nel cielo, seppur lontano. E vaga su per gli altri mondi, non chiede cose con parole nuove, ancora suoni che io non capisco, non mi rapiscono e mi portano via, via, via da qui.